quello interessa a tutti, lo scopo di tutti è andare a lavorare perché poi ti pagano, e se no quello muove il mondo. Ma ho già preso la decisione, secondo come va quest'anno me ne torno con la Rockout, me ne torno a lavorare con loro, adesso devo vedere delle cose, mi faccio quelle poche serate, non me ne frega un cazzo, non me ne frega niente. Recase. Dillo mia Gianni, buonasera Gianni. E buonasera, dai, non giù con il cane. Adesso sono salito in questo momento, dai. E io mi sono rientrato poco fa e non c'era nessuno, poi ho acceso la TV e mi sono ricordato c'era la partita della Juventus, ma è finito il primo tempo, poi ho sentito Antonio, mica sta rientrando a casa, eccoci qua, vai pure Gianni. Io, Antonio rientro, sì, via. Io sono con l'affanno perché mi si deve essere abbassata la glicemia mentre ero col cane e sono dovuto correre a casa a mangiarmi qualche cosa perché ce l'avevo troppo bassa, era dimurita. Ma no, spaghetti al burro! Quando c'è fame tutto il buono! Stamattina! Come già, scusa, forse ci siamo sovramodulati. Antonio ha detto spaghetti al burro, io ho detto, ma le ho fatti invece con aglio, prezzemolo e peperoncino. Aia, e anche quelli. Io oggi lo stesso, avevo insalata, mi sono fatto una fettina, ho mangiato la frutta e poi me ne sono andato un po' a dormire dopo pranzo, un'oretta mi sono fatto, poi sono uscito con mia figlia. Non mi parlare dopo pranzo che mi sono coricato verso le 3:30, mi sono svegliato alle 7:15. Ho fatto una bella dormita. Ho sentito che si sta prendendo la patente l'altro giorno. Aspetta, scusate un attimo che mi è arrivata una chiamata, rispondo, poi già sono qua. Sì, sì, Antu. Ho detto, la figlia ti sta prendendo la patente, ho saputo, oh Carlo. Io ti ho detto sì perché lo so. Com'è, brava Carlo. E al telefono, Carlo sta rispondendo al telefono, ha detto che può rientrare. Sì, ha detto che è abbastanza bravo le linguine. Cappa. Il problema è che quando... Quando vuole... Il problema è... Purtroppo l'ho fatto, l'ha fatto anche a me, a chiunque essere umano. Quando quelle sono le cose, l'ingegnere, macchina, è un casino. Vabbè, io mi davo già... Da quando lavoravo alla Coca-Cola guidavo spostavo gli autotreni, quindi un po' di basi ce ne avevo, dai. C'avevo un po' di basi di guida, spostavo le macchine, i camion, eccetera, perché lavoravo alla Coca-Cola tanto tempo fa. Ma come ti vuoi essere, no? Loro vogliono che nella guida ci sia una certa... devi prendere il volante in una certa maniera, lo so com'è, ho già dato la patente, figurati. Dammi la cavicchio, dai, un po' più infiliato il gioco, ma dammi la cavicchio. E la ti basta. Quello l'ha fatta a tutti, io mettevo gli assi di certo volume e camminavo mentre un macco. Ma dov'è Antonio che non lo sento più? No, io cammino, ma cosa voglio camminare? Antonio sta rientrando a casa in macchina, Claudio. No, non lo sento più, dove sei Antonio? Antonio, mi hai sentito Claudio? Dimmi Claudio. Ehi, adesso sì, adesso ti ho riagganciato poco fa, evidentemente eri in mezzo al palazzo. Capa, io sto sotto casa, mi stai arrivando qua, vabbè qua lo fa, mi stai arrivando in 4. Beh, proporzione, sì, due, tre, comunque già va bene, dai, sì, mezzo ai palazzi già va bene. Capa, io adesso sto anche a casa, vedi che già mi senti. Capa, io esagero, va bene. Vai. E beh, Claudio, avete risolto da Eugenio quel problema del tutto? Quale? Del microfono? Sì, ha detto che li dovevi mettere non so che cosa. No, no, non sono sceso, praticamente gli ho fatto togliere il cavo là sotto la radio, perché per comodità, per bellezza, insomma, era sotto la radio. L'ha tolto là sotto la radio, gliel'ho fatto mettere lungo nel tavolo, la spirale, e non lo sta più facendo, però adesso appena due minuti esce il d'accordo torre, se le metto il toroide nel microfono. Cavagà. No, vabbè, ma io dicevo ci va bene, una volta che ha fatto quell'operazione lì, sono cazzate, ma ti fanno perdere la testa a volte. Sì, ma a volte lo fa perché l'ha fatto anche a me, capito? Quando il cavo è sotto la radio, fa rientro di RF, perché sono poco schermati questi cavi spiralati. Io infatti i cavi spiralati li sto eliminando. A me Fabrizio mi ha fatto una spezzone da 80 cm, 70 cm, schermato, proprio schermato. E io lo metto sotto, adesso ce l'ho sotto la radio e mica fischia. Mentre invece se aggancio lo spiralato fischia, perché non hanno schermatura, sono spiralati del cacchio. Bastano nulla, anche a me fischiava, però io ho risolto facendo quell'affare che mi avete tutto, quel cavo di massa, non ci perdeva nulla perché l'avevo messo dentro la molla del microfono. Sì, beh, no, è un bonifura, esce una cagata, è chiaro che lo devi far entrare sino alla fine, poi si vede praticamente il pezzettino che si attacca al connettore, ma se è un cavo fine fine è nero, no, non si vede neanche, insomma ci deve mettere la testa sopra, poi io c'è il gomma e ti sciolgo, no, non fa. No, no, io l'ho eliminato, quello del 60, di questo no, questo ce l'ho spiralato, però è sempre esterno, non è sotto la radio. Mentre l'altro è sotto la radio, non si vede il cavo, si vede solo il microfono, ma anche questo lo faccio fare, anche questo me lo faccio fare, è un cavo grosso di quelli di impianti FI, capito, che sono schermati, hanno quella lanetta all'interno, la stagnola, bello, cazzo tu era a metro questa, ammazza che nelle varie a Fusaro. Mi ha fatto i due connettori, ho visto, ho preso i connettori e l'ho cambiato. L'ho tolto quello spiralato, ma so questo, non ha più avuto problemi. Lo so, però esteticamente è più bello quello spiralato, a me piace di più. Lo so già, ma cosa devi fare? Però non si vede, a me non mi piacciono i cavi dei microfoni davanti, io li metto sotto la radio, capito? Ad esempio quello dell'SM20, della ICOM, non è spiralato, è originale, i microfoni che stanno vendendo adesso, a parte la Kenwood che sono microfoni vecchi, ma quelli che vendono adesso, sia dell'SM20, SM30, l'SM50, quelli della ICOM che sono ancora in vendita, Kenwood non è valido nei miei microfoni, ma quelli della ICOM non ne hanno più spiralato, sono tutti col cavo così schermato. Brecker, capito, avanti Brecker. Ma c'era spiralato ispirato con la caldarella, ce l'ha attaccato, avanti Brecker. Ciao, buonasera a tutti, c'ero prima e poi mi è arrivata una chiamata, un condomino dice che sente odore di gas e gli ho detto fai il numero verde e Medea per le perdite, già vengono subito, e quindi niente, mi sono qua adesso in attesa che mi suoni il citofono quando viene, e perché stanno sostituendo le valvole per il passaggio al metano, e questi che vengono a mettere questa valvola poi non fanno le verifiche, chiudono il contatore e poi ci sono le perdite. E non è da scherzare, no. Se c'è odore di gas, chiamate subito. Esatto. Claudio, comunque avevi ragione, c'era acqua non lì ma da un'altra parte. Ciao a tutti, dai. Ciao Luca. Ciao Carlo. Chia? Hai? Però ti stavo dicendo, Carlo, dov'è l'acqua? Fufi. Hai? Mi sa che ho sentito Eugenio in sottofondo. No, non è Eugenio. Era coso. Era Cicomia. Ah, sono a Bragiolini. Ah, bene. Io ho sentito la portante, ho sentito la coda della voce, non l'avevo intuito. No, Emanuele. Che richiama? Da questa parte. chi sei? Gianni da questa parte. Gianni, sei basso. No, sono lontano da te, Giovanni, no Gianni. Ah, Giovanni sì, e dove sei? Casa. Ah? Domo Gassu, non intende. Boh, ho capito già, scusate. A casa sua è Luca. E ma che è? Giovanni, io non ho capito se Giovanni è quello di Plattamona. Ah, Giovanni da Plattamona. Ah, Giovanni Ultramento, Giovanni Stanco. Ah, pensavo Giovanni Ultramento. Beh, ragazzi, buon pomeriggio. Comunque, Gianni, era lo stilo lungo, no? L'ho svitato perché prima ho tolto il DL, lo spinotte, no? Ed era tutto bello asciutto. Invece l'acqua penetrava dove c'è l'attacco alla basetta dello stilo lungo, capito? Quindi come ho svitato lo stilo lungo, praticamente ho visto tutte le gocce che scendevano, era tutto bagnato, quindi si è infiltrata l'acqua dentro. Adesso cosa ho fatto? Ho messo un giro di grasso e poi sopra gli ho messo otto agglomerante, tanto è alluminio, capito? E quindi non dovrebbe entrare più niente adesso. Ma prima la dovevi sigillare con lo stilo, la massa dell'aria. Avevi ragione, era l'acqua, claro. Basta vulcanizzante con un giro di nastro adesivo sopra, e così lo stringe, e niente, non entra più. Ma quando fa così che ti fa il segnale indietro, c'è sempre un rientro leggero e quindi non è stabile il segnale, è normale che sia l'acqua. Vabbè, è risolto, niente di che, dai, già va bene. Quello che è entrato chi era? Giovanni, quello che è sempre stanco. Sì, avanti Giovanni. Oggi sono stanco davvero. Buonasera. Ciao Giovanni, qua già arrivi, S3, S4, va bene. Grazie mille, buonasera a tutti, sono in ascolto. Perché sei solo 8 di segnale, Giovanni? Sarà con pochi fatti. Sono piccolino, no, non si può pretendere molto da questa radio. E oppure gli ha fatto il vento qualche scherzo. Hai visto? Una casa io Claudio, tu, altro che il sciugo devi girare. Ecco, ecco, Shevchenko. Avanti, breve. Ciao, buon pomeriggio, me ne ascoltati qua a San Pì. Siamo di sera a San Pì, non di pomeriggio. Buonasera, cu. L'altro giorno, io che arrivi 4, 5, tanto a meno mi intendi, quindi. Cosa sei imbriaco, San Pì? No, veramente. Bianco, che per me che mi hanno chiamato, dai, ci sentiamo più tardi, ci siete ancora, ciao. Ciao, Carlè. Avanti, San Pì, non ho capito che hanno parlato sopra. Ho detto che me ne stavo alzando e quindi sono tutto mezzo attuntonato. Ah ecco, sei rimasto al pomeriggio, ma siamo venuti. Sì, infatti. KK, va bene, non c'è problema, riprendi. Tutto stontonato, ma stontonato, però, Sant'Antonio mio, tanto non mi intende, ma il boccio di chi ce li voglio. Davvero, Luca, riprendi. Luca va in comio. Manuele, tutti buchi so. Tutti una viaggita di Rubino so. Ma visto che mi sono i baracchini in vendita sui B. Ehi Gianni, ho venduto due, quello di Bodegliucco e quello di Valentino. Come te li hai venduti? A chi ne ha giù a Chedesi, c'ho quello di, come si chiama, di Diabolik. Poi c'ho l'altro di Joker. Poi ne ho un altro di... A chi me ne voglio comprare uno dopo, vedo di chi si dico 7300 MK2. Ma come te che sei così? 7300 MK2, di cosa è? Che marca? Boh, della Icon, non mi sembra che è quello lì. Boh, Claudio, lo conosci questo 7300 MK2 della Icon? Non è 7300, non è 7300, 706 MK2G. Ma hai capito? 706 MK2... Figlio, si chiama ICOM 706 MK2. Hai capito, sapi? 706 MK2 della ICOM. Una cosa del genere, sono belle quelle radio. Ma dite che il 27 si attacca a Pittorra, ma chi non anda a lungo il 27, non serve il 27 quella. Non va bene quella 27, San P, quelle lì. No, assolutamente no. Però vedi, senti, gli unici apparisti che vanno molto bene sono i Kirwood. E il 140, il 440, insomma sono quelli della Kirwood, quelli vecchi, che vanno bene il 27, e poi gli altri. Vabbè, ma ora già piglia magari un Kirwood o qualcosa. Adesso ne ho venduto due, ne vendo altri due e mi sono Kirwood. Ma quelli che ho comprato non li hai aggiustati, non ce l'hai fatta aggiustare. Allora quello, l'altro mi serve una bobina variabile da 7, pensa per aggiustare, una bobina variabile top da 10,7 MHz IF. Ma l'ultimo che ti arriva? Quello lì c'è tipo, è andato in corto con un corpo di corrente di 31 gas. Poi si è calunnato. Cosa vuoi dirti? Magari era già mezzo andato. E comunque il periodo che ha fatto quel vento cattivo, a parte quello di ieri notte. Comunque, sto usando quello di Che Guevara e l'Avan 68 adesso. E niente, subito quando sistemo quello là, userò quello là. E niente. Poi, se riesco a vendermelo qualcun altro di quelli che ho, di questi... Dile quando deve comprare il Kirwood, di dirtelo, già glielo faccio comprare io come cristiani. Hai capito, Sampi? Claudio ha detto, quando ti devi comprare il Kirwood, devi dirlo a lui, che te lo fa comprare lui come si deve, un Kirwood. No, di 10 miliardi da eBay, che da lui ti manda le roba che non serve. E lui conosce un po' di gente, quindi te lo fa prendere buono. Ehi, a K, ne sarò conto. Tanto all'incirca cosa costano quelli lì? 400 euro. Dipende quello che compri. Se compri il 440 sulle 400, 450. Se compri il 140 dalle 250 alle 300 euro. Sentite? Bravo Gianni, meno male c'ho l'interprete, che ho fatto comprare uno a Carlo, impeccabile, fiammante, ma funzionante al 200%. Mi sentite? Ehi, ci sentiamo Antonio, buonasera, stavamo parlando. Se lo stesso, pure se qui già merda funziona. Sì, già funziona. Ma se non è rovinata l'antenna funziona, certamente che funziona. Se sono il palo piegato, sicuramente la staffa non è stata messa bene, si è staccata la staffa lì. No, non è così, no. Non è andata così la cosa. Messe bene sono state, non bene, no, benissimo. È stato fatto il lavoro. Il problema è che si sono rotti i tiranti, capito? Se no non sarebbe successo nulla. Però magari colpa mia, perché magari ho fatto una corda che non era buona. Quindi è stata un po' colpa mia. Ma io non so che corda ci ho messo, la corda mi finisce a stendere, quella colorata, bianca e azzurra. Claudio, da quando c'è quella corda? Una vita, ma già il lavoro che abbiamo fatto da te è un lavoro eterno, occhiellati, tutti, no, non ce n'è lavori così, non ce n'è lavori così a Sassari, quello lavoro fatto bene. Borsetti, dopo fatto il lavoro ho messo tutti i borsetti per non sciogliersi. E lascia la cava un po' di tempo vedo, che adesso glielo faccio vedere io. Guarda che da voi non si muove, ma cioè, glielo facciamo vedere noi, glielo facciamo vedere. Guarda che poi non si muove, manco con i cannonati non si muove più. Perché l'antenna, in per sé l'antenna è una bomba, l'antenna non ha problemi. Purtroppo sono stati tiranti, sono stati che... Forse colpa mia perché li avevo recuperati e non erano buoni. Vabbè, se no non si sarebbe mai mossa l'antenna da lì. Di lì è un coso, ma la sistemiamo bene, non è un problema per quello. Fossero quelli mali. No, assolutamente, ma il tubo che tubo avessi tu, non di quello d'acqua. Per quello che è successo anche. Perché era un po' pesantino, Ma già sistemiamo, non è di solo problema. Io non capisco, tu buona qua non si piccia nel manco, è difficile che si pieghi, Io vabbè non ho messo il tubo d'acqua, dico la verità, ho messo il tubo d'acqua alla fine però quello che c'è in base, il tubo base, gli ho lasciato quello vecchio, gli ho messo il tubo nuovo d'acqua quando ho messo l'antenna nuova e la parte di sotto l'ho lasciata perché smollando magari si spaccano i piedi e tutto quanto e toccare mettere tutto nuovo, allora l'ho lasciato, tanto era buono, gli ho dato una verniciata e gli ho messo il tubo d'acqua alla fine gli ho messo il tubo d'acqua e poi tra l'altro il tubo d'acqua che c'avevo non ho trovato dei pollici che ci volevano, è un po' più fino e gli ho messo un pezzo di tubo più grosso, gli ho messo un bullone passante e si è inserito l'antenna. Sì, adesso già la sistemiamo. No, guarda che già dopo già non si muove più. Hai detto che un po' di quei cavallotti di grilli, eccetera, eccetera. A vedere che li passano, ma che non si muove manco ne sa mappa più. Falli passare Marchini, vai tranquillo, alza di antenna. Va bene, è appena qualche grado coricata, amico, va nuda, non va. Tanto non è a Bogu la varriata di Ruvenzo. Oh, io sono sceso giù perché ho spaventato, guarda la mia tela, si muoveva appena appena. In confronto la rimasta che si bigiava in due, io penso che con quel vento non avrebbe toccato a terra che si bigiava. Questa qua non si muoveva quasi nulla. No. Come dici tu, una signora antenna. Veramente una signora antenna, già l'ho vista io il giorno scorso, Andrea, che veramente si muoveva pochissimo, la punta un pochino, però una signora antenna, quella stabile, buona, ma anche quella di Eugenio, mi dice Eugenio, l'avevo piazzata proprio al riferimento giusto, oramai è già collaudata, ha pigliato Rubolenti e Rumaestrari, no Eugenio? No, ha travagliato solo con Rumaestrari pieno. Ed è ancora salva. Ah, diciamo che l'ho comprata buona questa volta. Allora, dai ragazzi, sono entrati così per salutarvi. Io me ne sto andando che la moto mi sta aspettando. Ciao. Ciao, G, ciao. Vabbè, saluta Claudio, poi a lui. Ciao genio, ciao, buona passeggiata, già ci sentiamo, vai Carlo è uscito, Antonio riprende e fai girare per San Pino, tanto a me non mi intendi. Cappa, hola. Ciao genio, ce la risentiamo, no, la mia in per sé ha una buonissima struttura, perché anche quelli degli altri che ce l'hanno uguale a me non l'ha fatto nulla, si l'ha impigliato in pieno, si l'ha impigliato. Io l'ho vista l'antenna in per sé è un'antenna che è molto robusta, anzi, perché poi quelli lì quando te la vendono non è manca cannonate ne escono quei tubi, capito? Perché vanno, c'hanno le cose obbligatorie e quindi è bella robusta. In quel fatto lì dell'altro qua c'è l'antenna e cose, ci hanno fatti tirare, non l'avrebbe fatto nulla. Poi dirà quanto voi, l'antenna in per sé è robusta, non rifatti nulla, perché io l'ho vista anche pigliata in barriate, volte, non come questa qua, ma forti, la punta si muoveva appena, tric, e boh. L'antenna in per sé è robusta, ne sono sicurissimo. Dai, rispondo. Ehi, Arturo, già va bene la tua antenna, ma non ha niente a che fare con quella di Gianni. Quella di Gianni è un altro tipo di antenna, quella di Gianni è praticamente simile alla Mantova, come strutturata, come piantone, come tutto, ha i radiali lunghissimi, è una buonissima antenna. La tua va bene, qualità prezzo, è un'antenna che regge, che funziona, va bene. Però, cazzo, tu quanto le baghe, 70 euro, 60 euro, 6 anni con 150 euro un'antenna? 180. Cazzo, ancora di più. Lo sai che che il nastro che hanno messo sopra il vulcanizzante non è ancora uscito, è buono quel nastro che vende Fusaro. Ah, è buco attacca là. È già 2 anni, il giorno perché di Santa Lucia, perché la festa del Cattolico, lo ricordo, era Santa Lucia, l'abbiamo venuta 2 anni fa, e praticamente non è ancora uscito il nastro che di solito esce subito. No, comunque l'antenna in per sé è robusta, è sicura, perché vabbè, adesso sistemeremo tutto, è a posto, già abbiamo le funzioni di rimare, e vabbè. Quella che hai tu sono antenne leggere, non sono grosse come la Mantova, come... magari la robustezza ce l'hanno, ma sono leggere come antenne, non dovrebbero rompersi, perché essendo leggere flettono, capito? Diciamo la robustezza della Mantova di quella che ho io è diversa, è in acciaio, la parte di sotto è in acciaio, non è in coso, non è la mirina. Non sei uscita tu? Ho detto che pure la mia dice la sua, ho detto che vuole cucinare la pasta, ce la risentiamo. E anche vai, ci sentiamo, ciao, Claudio, riprendi. Claudio, ma noi ci sei? Ritenete di tutti salutati, io sto chiedendo, non risponde nessuno, ma vado a cenare, dai. Ciao Gianni. Ciao Carlo, rientrato, sì. E me, cosa avete risolto? Oh, scusate che mi è mancata la luce, saluto chi è uscito. Antonio è uscito e Carlo è entrato. Ok, dai, che mi è mancata, per un attimo mi è mancata la luce. Vabbè, infatti ci ho chiamato e tu si è allontanato per la caldaia. E beh, Carlo, cosa avete risolto? È venuto il tecnico Medea, quello delle urgenze, è lo stesso, c'è una piccola perdita, adesso ha chiuso il contattore perché è in un appartamento dove non c'è nessuno e quindi ha detto che torneranno domani, che va cambiata la valvola, che è la valvola che è difettosa evidentemente, capito? È un intervento che hanno fatto oggi e quindi ha chiuso solo il rubinetto, poi dice domani di giorno veniamo presto, dice che sostituiamo la valvola, facciamo le verifiche, dovrebbe essere tutto a posto. In casa se ne ha parlato che non c'è nessuno è ancora peggio perché è vuoto, e sono attenti queste cose. Io mi ricordo di via Cesare Battisti che aveva esploso, stavo a salendo in piazza, io ho sentito questo odore acido, mamma mia, un odore non si poteva stare, e era esploso in piazza del gas di città che c'era tanti anni, quello lì era abbandonato, chissà cosa sia successo, si è formata aria all'interno e ha fatto una bomba. Eh sì, quello ragazzo in bombola però, capito. Questo che abbiamo noi, il gas di città, gas con aria propanata, insomma, c'è un additivo che lo rende puzzolente, capito, proprio per essere sentito. Infatti il tecnico ha detto giù, dice no, dice quello apposta, dice lo mettiamo in maniera esagerata perché almeno così si sente subito e la gente chiama, capito? Però la perdita era minima, dice, non fa niente, col vento che sta andando, dice, anzi, è un miracolo che l'abbiate sentita, capito? Perché c'è ancora un po' di vento. Adesso ha chiuso solamente la valvola d'arresto, capito? Perché tanto nell'appartamento non c'è nessuno, è venuta stamattina la proprietaria per fare questo intervento. Poi evidentemente sono andati via, loro non hanno fatto le verifiche, oppure la valvola, come ha detto, può essere difettosa e sta perdendo, e ritornano domani mattina. Comunque ha messo in sicurezza tutto e domani sistemeranno tutto. Va bene Gianni, se stai uscendo ti saluto, buona cena, buon tutto, ce la risentiamo. No, io sto uscendo perché non risponde a nessuno, se rimanete un altro po' rimango, capito? Tutto il cane l'ho già portato, non mi interessa a me di cenare, tanto mi farò una caprese, non ho voglia di mangiare a quest'ora. mi sono mangiato due o tre arance per farmi salire la glicemia, perché era un po' giù come glicemia, capito? Adesso di mangiare non è che mi interessi più di tanto, lo devo fare a Taiso da mangiare, quando mangio io mangio anche lui. E niente. No, il gas che c'era prima non era in bomba, sta sbagliando, era gas di città, era di quello con le tubazioni che partiva da via 25 aprile, c'era l'impianto generale e poi praticamente si metteva in tutta la città là. Adesso c'è l'aria preparata, ecco, sono rientrato, ho messo la fatta a fare. Hola. Hola, hola. L'aria fischiata c'è. Lo so, è l'aria propanata, capito? Era quella che... Oh, dai, che io vado a cenare, se ci siete ci sentiamo dopo, se no domani. Ok, un saluto circolare a tutti, Carlo, Gianni, Antonio, chiunque sia in agguato qua su 10. Buona cena per chi non l'ha fatta, eccetera, eccetera, ci sentiamo, ciao. Ciao Claudio, buona carica, dai. Avanti, Carlo. Ciao Claudio, ci sentiamo, non ti preoccupare, poi più tardi io non so se accendo un altro pochettino, ce la risentiamo, vai Antonio. Ciao Claudio, ce la risentiamo. Ciao Gabriele. Ciao Gabrielino. Sto salutando Gabriele. Saluta. Ma parla. Ma che parla e parla. Sembra attivo Gabriele. Dice parla, parla, parla. E buona cena Antonio, preparata vai. Sta andando, l'ho avviata. Un po' di pasta al burro e mangiamo. Non è frega niente. Poi la faccio buona pasta al burro. E sai cosa c'è, Antonio? Che burro buono se la c'ha più, prima c'era un buon sapore il burro, adesso è bambù, non so più che burro prendere, ma prendeva il burro Celsa nella centrale del latte. Ah, quello lì era buono, ma questo che prendi adesso non ha sapore di nulla. La Celsa stai dicendo? Burro Celsa, non so se esiste ancora, era quello della centrale del latte di Sassari. Papla è la centrale del latte di Sassari. Ma il burro si chiamava Celsa? Non lo so. Sì, era, non so che era la Quapla. A me lo di genere, andavo a prendere a pedale di latte col camion, non bisognava sempre guardare se recuperare. Le stavo dicendo poco fa Carlo, ma qua qui già sta prendendo la patente. Come Anto, scusa che ero un po' distratto. Aspetta, tua figlia si stava prendendo la patente. Sì, ha fatto già l'esame, la teoria, da luglio è passata e sta facendo la guida, ma questo dell'autoscuola a casa gli fa una lezione ogni tanto, quindi stasera sono uscito anche con lei, l'ho fatta guidare, siamo scesi da Troni e siamo risaliti guidando lei tutte le rotatorie, a guidare già guida poverina, e che deve fare un po' di esperienza con i parcheggi, ma mi auguro che glieli faccia lui, perché comunque l'esame lo farà con la macchina dell'autoscuola, non con la mia, capito? Care, da che sta andando? Sta andando in quell'autoscuola che c'è in via degli astronauti, da c'è Tore Canu e Franco Checca. Sì, io lo conosco io. No, io l'ho presa via Zaffarino, bravissime. Lo so, anche mio figlio l'ha presa sempre qua da Tore Canu, capito? E in un attimo mio figlio è andato, ho fatto l'esame, la teoria, dopo due mesi aveva già la patente in tasca. Mia figlia è un anno appresa all'istruttore di guida. Lo sai cosa c'è Carlo? Non sono onesti, perché a Marco gli hanno fatto fare un bel di guide e non è pronto ancora, non è pronto, se l'ho preso, sono intascato un bel po' di soldi, capito? Esatto, così stanno facendo con mia figlia, cosa che con l'altro invece non me l'hanno fatto questo gioco, capito? Perché abbiamo molte persone qua e là, quindi così, quindi colà. Adesso ci vado, glielo dico, se no mi restituite tutti i documenti, la scrivo in un'altra autoscuola, se voi non avete intenzione. Vai da Coso, se fate i macchi, vai da Raffarino, che sono un bel bravo, c'è Sergio, c'è che è una persona in gamba. Ti telefono ogni giorno quasi, se vuoi. Adesso domani, dopodomani c'ho due giorni liberi, infatti a mia figlia gliel'ho detto, chiamami domani mattina e vediamo cosa ti dice. Ti presenta a fare questo esame di guida o altrimenti cambiamo autoscuola, ci danno tutti i documenti e ti scrivi da un'altra parte. Sì, perché sai cosa fare? Aspetta l'ultimo momento, gli farò scadere tutto e poi gli fai tutto da capo. Per due anni può andare. Già lo so che sono furbacchioni. Due anni, se mal lavoratamente non passa la prima volta, deve fare la seconda, e quando passa il tempo lo so, io lo so come fa, l'hanno fatto con Marco. Marco non ce l'ha fatta a prendersela la patente, ci ha preso la chiuglia subito, ma immediatamente, come la tua esame l'ha presa, la chiuglia. Poi ha trovato questo bastardo che l'ha bruciato due volte, è sempre la stessa persona. Una volta perché gli è uscita la macchina da V8 e lui stava già passando e gli ha detto che si doveva fermare, ma lui ci aveva la precedenza e comunque l'ha bruciato per quello. E un'altra volta perché è passato sopra, quello è stato colpa sua, sopra il binario della metropolitana in superficie, dice no, il binario non bisogna toccarti, bocciato. Stai scherzando, un conto se c'è l'incrocio, che ci sono i binari, ok, ma non puoi toccarli assolutamente. I primi di luglio lei ha fatto l'esame alla motorizzazione ed è passata alla prima, si è subito iscritta, poi ad agosto erano in ferie, poi ha iniziato due lezioni a settembre, due lezioni gliene ha fatte a ottobre, poi gliene ha fatto qualcuna qua e là, le 12 lezioni le ha finite, adesso gliene stiamo pagando altre 12. A 12 con una, così? Esatto. E devo dire, a me, io gli ho dato 1.000 euro per la patente, in più gliene ha dato anche la madre per fare le guide, figurati tu che ha pagato questa patente e poi non se l'ha presa. E adesso domani già mi avvicino io all'autoscuola e voglio vedere, a me non mi interessa, io gli dico allora a mia figlia la patente serve perché deve andare a lavorare e quindi gli serve come il pane, quindi lei tempo da perdere non ne ha, fategli le lezioni, quelle che servono, poi volete fare altre 10 in più, altri 12 in più, già le paghiamo, però fategliele e la presentate, perché così non possiamo arrivare a luglio che gli scade di nuovo tutto e poi si deve ripetere anche la teoria, ma siamo marchi. No, per due anni, no, deve pagare un supplemento e poi 60 euro deve pagare e poi prosegue ancora per un anno, per due anni è a posto. Vabbè, allora loro giocano su quello, come diceva Gianni, sono furbacchioni, e io prendo e gli dico, gliele fate altrimenti mi date tutto, io sto cambiando autoscuola. Appunto. Mi raccomando, fatevi entrare in campo, tenete la distanza di sicurezza perché è molto importante. E Cantaglienti bisogna dirgli, a me me l'hanno detto, Cantaglienti macca in giro. E un attimo, Emmy. Purtroppo, quando c'ho l'esperienza, a me me l'hanno detto, stai lontano, distanza di sicurezza, stai attento, no, anche per i primi periodi che non si è abituato, bisogna che a me quello ci abbecci. Esatto, sì, c'è gente furba, ce n'è, ad ogni angolo della strada ne trovi qua, pronti a fregare. Ciao. Grazie a Dio, io già, no, non mi sono mai scutto al loco, grazie a tutto questo che mi tocco, con la macchina, l'unica, le mie cazzate che ho fatto è quando vedo l'altra volta che bene, non ho toccato niente, sono in deposito. Ok, dai, speriamo bene. Carlo, vai, allora, mia moglie gli ha telefonato e gli ha detto che di guida ne aveva fatta abbastanza, quanto ne doveva fare, di fargli fare l'esame. E gli ha saluto, gli ha risposto che il suo lavoro lo conosceva lì, era una donna che gli faceva le guide, che il suo lavoro lo conosceva lì, cosa vuoi insegnare il mio lavoro, gli ha detto. Ma fratello, vuoi portare che sono in gamba, no? Da chi ci guardi, scappa, dai, va a vedere se è pronta la pasta. Ok Antonio, buona cena a te, a Gabriele, allora, dai, andate a cenare. Tu hai mangiato, Carlo? No Gianni, non ho mangiato perché mi hanno chiamato giù, sono sceso, pensavo di preparare, stavo buttando l'occhio alla partita, ma la Juventus sta perdendo 4-2. Quindi non ti entusiasma oggi? No, perché anche oggi hanno espulso un giocatore, hanno espulso uno che è entrato per sostituire un altro che era ammonito, capito? Cambiaggio era ammonito, l'ha sostituito, e quello che è entrato, capito? Ne ha preso due di ammonizioni nel giro di un quarto d'ora e l'hanno espulso. Sì, ce l'avranno con loro allora. Vabbè, questa è una partita di Champions, non ha niente a che fare col campionato italiano, però, capito, lì è un po' l'adrenalina, capito, non si è saputo regolare e quindi ha preso due falli in pochi minuti e come è entrato è uscito. Cosa dice per la guarda? Oh, iaia. E niente, quindi ti stavo dicendo prima Gianni che lo stilo lungo è avvitato sulla bazzetta dell'antenna, perché prima ho tolto lo spinotto ma era bello asciutto, capito, eccetera, e poi ho svitato quello, come l'ho svitato sono scese un sacco di gocce di acqua, capito, evidentemente si infiltrava l'acqua come scende nello stilo lungo e poi lì c'è una specie di attacco, capito, evidentemente passava da lì. Ma non c'è nessun orifizio per sgorgare l'acqua che è? No, si avvita e non, magari col tempo si asciuga col sole, magari si riscalda un po' l'alluminio, magari sarebbe asciugata, poi magari col tempo lì sai si forma un po' di calcare eccetera, magari non sarebbe neanche più filtrata, però adesso a scanso di equivoci c'è tutta la fessura intorno al tubo d'alluminio, no? Che va a incastrarsi in questa specie di vite che poi viene fissata sulla basetta. E lì ci ho messo appena di grasso, capito? Dopodiché ci ho messo il nastro vulcanizzante, capito? Ben stretto, girato, e poi gli ho dato anche un giro di nastro adesivo, capito? Un paio di giri gli ho dato, così me lo fissa ancora meglio. Poi se il nastro adesivo col tempo va via, già rimane il vulcanizzante, non dovrebbe più entrarne. Io gli avevo messo grasso conduttivo, quello per impianti elettrici, per antenne, me l'aveva consigliato un tecnico. Ho messo questo grasso conduttivo e non entrava acqua per niente. Però poi, vabbè, con l'andare del tempo, il sole, l'estate, lo sciude fa e diventa olio. Sì, questo che ho io è un grasso, diciamo, per motori marini, capito? Già va bene comunque, dice che è resistente all'umidità, eccetera. Ma ne ho messo appena, giusto l'ho fatto infiltrare dentro. Dovrebbe anche seccarsi dentro, capito? Quindi poi alla fine non, spero che non entri più acqua da lì. Ma io non ne metto più di quel grasso, ogni volta che devo toccare l'antenna mi incastravo tutto, guarda. Da tutte le parti, nei pantaloni, nella giacca, tutte le parti le trovavo, quindi è un po' controproducente, nel senso che se tu vai a fare un po' di manutenzione all'antenna ti cavi tutto. Ma l'ho messo piano, ho usato un cotton fioc, pensa, non è che ne ho messo in maniera esagerata, poi attorno pulito avevo un pezzo di straccio, capito, pulito bene, l'ho asciugato bene e poi ho messo il nastro vulcanizzante, quindi credo che non ci entri più niente adesso, poi ho rifinito tutto col nastro isolante e speriamo che non è niente di che, dai, poi in un modo o nell'altro lì se rientra di nuovo acqua già me ne accorgo adesso. E devo sprizzare un po' di spray per contatti oppure CRC, e una volta tolta l'acqua sprizzare un po' di quello, di modo che lo disossida pure. sì, cavolo, ma mai avrei pensato che ci fosse, che entrasse l'acqua da lì, pensa tu, roba da matti. E acqua ne ha fatto, evidentemente tutto lo stilo raccoglie l'acqua, scivola e piano piano si è infiltrata, capito? E aveva ragione Eugenio, dice che avevo picchi negativi, infatti Claudio mi ha detto controlla che magari c'è entrata un po' di acqua nello spinotto, invece non era lo spinotto ma era là. Ma a me non risultava, mi risultava positivo addirittura, forse perché c'era vicinanza anche, capito? E non mi risultava. E poi l'ho visto, dopo che loro ne hanno detto parlato tanto, ha dato un colpo all'indietro, ma non avevo notato, capito? Sì, ma neanche io, vabbè, è comunque sempre meglio dare ascolto a chi è più esperto e chi ha più anni di esperienza, insomma, dai, è già ho risolto adesso, dovrebbe andare bene. Sì, già va bene, poi con la volta che metti quella sul tetto ho risolto il problema. Adesso vediamo, infatti quel condomino che mi ha chiamato prima per il gas chiama sempre a me ed è quello che abita all'ultimo piano, capito? Ma ci parlo tranquillamente con lui. Poi già gliela butterò, però quando inizia primavera, capito? Mi preparo tutto. La J-Pol diciamo che è a posto, l'ho tutta pulita con la spugnetta ruvida, capito? Ha tolto tutto quel nero, capito? Poi l'ho pulita con gli stracci, i tubi li ho messi ad asciugare tutti quanti, poi gli ho passato uno straccio asciutto bene e ho staccato tutti i cosi, le fascette che ci sono, tolte le viti, pulite, capito? Le ho messe a mollo nel via cal, le ho asciugate bene, praticamente semi nuova adesso, capito? E ce l'ho pronta, e anche quel di Polo SD, quello in alluminio dell'assilio, anche quello pulito e ce l'ho pronto nel caso dovesse servire, o una o l'altra, così se mi danno l'ok la prima che va bene a mettere la piazzo subito. Sì, ma magari qualche giornata bella la fa anche adesso, vai, se trovi una giornata bella che sei libero ce la fai. Hai visto quello di Via d'Italia, Luca? L'ha fatto in un giorno. Esatto, lui però accede dalla sua mansardina, capito? E quindi non deve chiedere a nessuno, quindi sicuramente si è organizzato tutto, anche io nell'altra casa da solo mi ho portato tutto su, prima mi ho portato l'antenna, poi mi ho portato su il cavo, capito? Poi mi ho portato su i pali, tutte le cosole, le staffe, tutto quello che mi serviva, trapano, batteria, fascette, nastro vulcanizzante, di tutto avevo, mi sono portato tutto quanto, era una bella giornata di primavera, intorno a maggio era, capito? Non c'era vento, nulla, quindi me ne sono salito lì alle 8 del mattino, ho portato tutto, 8 e mezza avevo tutto su, capito? E mi sono messo poi, nel giro di un'oretta ho tirato sull'antenna, ho collegato il cavo, ho isolato bene lo spinotto, ho fissato la discesa del cavo nel tubo dell'antenna, poi è passato sopra il piano di calpestio e poi scendeva nel palazzo dietro all'interno del cortile, proprio su a fianco a, diciamo, all'angolo, proprio scendeva nell'angolo ed era perfetto, non lo vedeva nessuno, non disturbava nessuno, capito? Proprio fatto, e non mi ha mai dato problemi quell'antenna come l'ho messa. Io guardo, ho fatto un lavoro, ho messo gli occhiesi per i tiranti, prima di mettere, ho fatto il buco col trapano, prima di mettere il tassello ho messo silicone nero, come io ho avvitato, silicone si tuffo lì, ho tappato tutto quanto attorno, ma è uscito un lavoro proprio perfetto, mi chiedo a Claudio come l'ho fatto. Poi vabbè, adesso che ho messo questa antenna ho cambiato tutto il palo, tiranti e antenna, tutto quanto nuovo ho messo 2 anni fa. Buon lavoro allora. Sì, ce l'hai messa 2 anni fa, pensavo ce l'avessi da più tempo. Allora ce l'hai anche da poco là, quindi a voglia. E quell'antenna lì ti dura una vita, spero più a lungo possibile, capito? Io lo stesso, se riuscirò a metterla, lo stesso cercherò di fare al meglio in maniera tale di non doverci più salire per un bel po', capito. Poi sul poggiolo posso mettere altre antennine, quello che voglio, capito. Però una sul tetto è secondo me fondamentale per la 27. Caro, io ti devo lasciare che questo qui vuole mangiare, mi ha chiamato e vuole mangiare. Questo mi ha avvisato per ogni cosa. Vuole che spenga, mi ha fatto, mi ha mugugnato. Mi ha messo la mimura, come si dice a Sassa. Va bene Gianni, dai, buona serata, anche io adesso vado, mi preparo qualcosa da mangiare e poi mi metto comodo, capito, tanto non devo più uscire, mi sparacchio qualche film alla TV. Ce la risentiamo domani sicuramente. Ciao Gianni, buona serata e saluto anche a tutti quelli che sono in ascolto. Ciao caro, dai, un saluto nel circolare a tutti, anche gli ascoltoni, ciao.